Mercoledì 3 aprile 2024, sono le 9 e 21 minuti. Durante la lunga pausa tra la quarta e la quinta serie di Pendo Deliri, una delle cose che soprattutto in pandemia riuscivo a fare, una delle poche cose che si riuscivano a fare, però insomma sappiamo bene come la pandemia abbia reso desiderabile e tollerabile fare cose che prima non ci sarebbero mai venute in mente, come esplorare per esempio quartieri periferici. Ecco, una di queste cose fu esplorare tutti i quartieri dell'area nord occidentale della città, che non sono così facilmente identificabili, no? Come le periferie più note, no? Come, che so, il Tiburtino, Centocelle, Pietralata, San Basilio, Tufello. No, nella parte occidentale, un po' anche l'orografia della città, no? Queste selve che ogni tanto si aprono, queste zone che separano una zona dall'altra, no? Per esempio tutta la zona del parco del Pineto, la zona del parco di Montemario, cioè ci sono dei quartieri che si vedono e non si vedono, altri che addirittura cambiano nome, cioè che una volta erano un paese, come Sant'Onofrio. Infatti quando si decide di fare il manicomio di Santa Maria della Pietà, Sant'Onofrio conosce un grande sviluppo, perché chiaramente ci vanno a vivere tutte le persone che ruotano intorno a quella economia che si viene a creare, e poi a un certo punto il manicomio chiude, ma nel frattempo tutta la zona è inglobata da case che vengono costruite intorno a questo borgo, e che qualcuno oggi chiama Montemario Alta, ma è davvero difficile da definire. Stesso dicasi di tutte le zone limitrofe, Pineta Sacchetti, la Balduina, Appiano. E un ottimo modo per conoscerle e per vederle paradossalmente dall'interno è farsi un giro a piedi, ma ancor meglio in bicicletta, in questa specie di parco lineare ciclopedonale che fu inaugurato una decina d'anni fa, che praticamente è una pista ciclopedonale di 5 km che collega l'ospedale San Filippo Neri con il parco di Monte Ciocci, ripercorrendo praticamente il tratto di ferrovia Roma-Viterbo che correva in superficie, o meglio in trincea, e che è stato dismesso perché sostituito da un tratto in galleria inaugurato con il raddoppio, con il giubileo. Quindi la ferrovia, diciamo così, nuova esiste, anzi diventa al servizio di questa di questo parco ciclopedonale. E il parco invece ha la forma lineare, no? Si parlava l'altro giorno della città lineare di Arturo Soria, l'urbanista spagnolo dell'inizio del secolo scorso. Ecco, questa è un'altra variante interessante. E è molto bello fare il giro in bicicletta, intanto perché ci si può arrivare col treno, cioè uno da qualsiasi punto della città prende la bicicletta, sale sul treno FL3, che insomma parte da Tiburtina, fa Tuscolana, Trastevere, insomma si può prendere in tanti punti, Ostiense. Poi scende in una di queste stazioni che sono collegate alla ferrovia dismessa parallela diventata pista ciclabile, e poi fa un tratto oppure la fa tutta. Diciamo che è, per i più pigri è meglio farla da nord a sud, perché è leggermente in discesa, altrimenti c'è qualche tratto in salita che, diciamo, se proprio non siete non avete usato la bicicletta negli ultimi 5 anni, all'inizio può essere leggermente più faticoso, ma è comunque prevalentemente pianeggiante e molto piacevole, molto spettacolare, perché poi attraversa proprio con dei ponti, con dei viadotti, queste zone come quella vicino all'ospedale Gemelli, dove si aprono improvvise foreste, e poi quartieri fittissimi, no? C'è tutta una psicogeografia dei quartieri, che poi insomma uno può anche andare a esplorare più a fondo andando, svoltando per esempio in via di Torrevecchia o nelle strade proprio tipiche di questi quartieri. E è un peccato che oggi, finita l'emergenza e il lockdown, si sia un po' smesso di fare queste cose, tra virgolette, strane, si sia tornati a utilizzare i posti per quelle che sono le loro destinazioni d'uso. Un esercizio utile è non perdere confidenza con quello che abbiamo imparato in quei giorni in cui tutto era chiuso e quindi dovevamo inventarci noi quali pezzi della città aprire di volta in volta.